Un certo numero di ascoltatori ci hanno scritto o ci hanno telefonato, si hanno fatti comunque vivi per manifestare il loro dissenso sul nostro invito di collaborare a questa trasmissione con analisi, si sarebbe detto una volta, autoprodotte e autogestite. Li ringraziamo di cuore e assicuriamo che se a volte abbiamo reso pubbliche le loro argomentazioni, non è stato per eluderle, costringendoli a una sorta di collaborazione non gradita e paradossale, di collaborazione negativa, ma era solo perché il loro punto di vista ci aveva davvero convinto. Ciò naturalmente non significa che non siamo grati a chi invece all'invito ha aderito e ha cominciato a far affluire a Radio Popolare gran coppia di cassette magnificamente registrate, e anche a loro daremo piena soddisfazione sottoponendovi la loro produzione con genuino entusiasmo. Sì, lo ammettiamo, questo è un atteggiamento contraddittorio, ma abbiate pazienza. Da un lato l'idea di aprire la trasmissione ai vostri interventi, che non era originariamente nostra ma c'era stata suggerita da persona radiofonicamente molto eminente, ci allettava e ci alletta tuttora per tutta una serie di ragioni che vanno dalla naturale tendenza a lavorare il meno possibile al desiderio legittimo di confrontare le nostre analisi con quelle di coloro con cui la radio ci mette provvisoriamente in contatto. Dall'altro non vediamo perché non utilizzare gli argomenti, diciamo così, non collaborazionisti. Anche loro esprimono dei valori e anche loro rientrano nel grande dibattito sull'ideologico quotidiano. E poi francamente, noi così giochiamo in casa. Chi ci sta e chi non ci sta è comunque costretto a usare degli argomenti che ci procurano una grandissima soddisfazione. Chi ci manda la cassetta si sente in dovere di dichiararsi ammiratore della caccia, e in effetti se non lo fosse non si vede perché dovrebbe prendersi il disturbo. Chi non la manda però ci scrive, di solito si giustifica osservando che comunque la trasmissione dobbiamo farla noi due, che siamo così bravi, e anche questo naturalmente non è che ci dispiaccia. Perché se qualcuno ci scrivesse che la trasmissione gli fa schifo e per questo lui non intende collaborarci, o che le nostre analisi sono profondamente ripugnanti e per questo si è deciso di produrne di originali lui, dimostrerebbe una certa qual contraddittorietà di impostazione e sarebbe facilissimo farlo ideologicamente a pezzetti. Provateci se ne avete il coraggio e vedrete. Scherzi a parte, è un'unica raccomandazione. Tenete conto, sia nel collaborare sia nel non collaborare, tenete conto delle dimensioni della trasmissione. Per esempio, l'amico Filippo Franceschi Veano di Villò Piacenza ci ha mandato una cassetta divertentissima, il cui punto di vista ideologico condividiamo di tutto cuore, ma è veramente un po' troppo lunga, non ci sta. Cercheremo di utilizzarla in qualche modo, ma così com'è ci crea dei problemi. Grazie comunque.